pioggia di ieri sera era la stessa di 20 anni prima, di una sera di fine estate nel mio paese, in un'altra vita. Il cielo fresco della mattina mi vede scendere verso la piazza, mentre cammino sono felice, saluto la gente che passa, che mi conosce da quando ero bambino e che conosce il mio nome, che mi ha visto da sempre su queste strade rubare alla vite, giocare a pallone. E a parte questa incertezza, che del resto è normale, per chi deve partire e questa amarezza, per chi non vedremo tornare. E a parte tutto, malgrado tutto, siamo ancora qui a parlare e a fare discorsi sui massimi sistemi del mondo, a sparare cazzate. Ci siamo seduti per un momento come vecchi compagni di viaggio che fanno progetti e in fondo lo sanno che non c'è un posto migliore di dove stanno. L'abbiamo sentito arrivare nei temporali improvvisi di agosto, in quei pomeriggi interminabili e uguali, dentro un cortile al riparo di un chiostro. L'autunno cantato nei versi dei nostri cari poeti morenti, che decreta ogni anno la fine alle tue età o stabilisce un inizio. La pioggia di ieri sera era una cosa che è già successa, forse una sera verso settembre, molti anni prima, per l'ultima volta. E a parte questa incertezza, che del resto è normale, per chi deve partire e questa amarezza, per chi non vedremo tornare. E a parte tutto, malgrado tutto, siamo ancora qui a parlare e a fare discorsi sui massimi sistemi del mondo, a sparare cazzate. Ci siamo seduti come dei vecchi nel meriggiare di agosto, che sembrano assorti nei loro pensieri, come sospesi tra l'infinito e l'orto.